Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che lavori prendi? C'è una rapina in corso. C'è una rapina in corso. Che lavori prendi? O entri agli arresti o finisce lì la cosa. Noi andremo avanti per la nostra storia, con la nostra tesi, che deve essere fermato tutto, perché balleranno ancora 4-5 miliardi e non siamo in grado di tirarli fuori ancora col debito che aumenta. È tutta gente che va perseguita, vanno perseguiti i leader politici, non questi barboni della tangente di 15.000 euro, 20.000 euro. E questo, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, avete naturalmente riconosciuto, era Grillo oggi in conferenza stampa a Milano, era venuto per l'Expo 2015, come anche Renzi, però diciamo ha espresso una posizione completamente diversa. Lui dice: bisogna fermare tutto perché c'è una rapina in corso. E poi c'è stato il presidente di Confindustria Squinzi, che oggi ha detto: non avrei mai immaginato, anche nelle fantasie più sfrenate, questo esito dell'Expo, e dice però bisogna andare avanti, una grande opportunità per il nostro paese. Che cosa ne pensate voi? Siete più, diciamo, sulla posizione di Grillo, che dice ormai tutto è compromesso, qui bisogna fermare perché diventa un arresto a catena praticamente, oppure come dice anche Renzi oggi, che era per l'appunto a Milano e ha detto bisogna fermare i ladri, non i lavori? Cosa ne pensate? C'è sempre per voi a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure le vostre osservazioni anche agli sms al 349 238 6666. Poi affronteremo vari temi come tutte le sere. Vi devo raccontare prima un po' in sintesi la giornata. Expo scontro in procura e Renzi a Milano dice lo Stato è più forte dei ladri, ma Grillo commenta: è una rapina in corso, bisogna fermare tutto. Immigrazione, duro confronto con l'Unione Europea che afferma l'Italia dica cosa vuole. Alfano risponde: lo abbiamo già fatto, ma in serata poi arriva una telefonata di chiarimento. Fuga di notizie al Ministero del Tesoro, indagati tre funzionari. Berlusconi e il presunto complotto, lo sapevo, dice, ma Obama si comportò bene. Il caso Mattacena e l'arresto di Scajola, ci sono altri indagati. Intanto il Libano frena sull'estradizione di Dell'Utri, le regole non le decide il ministro Orlando, dice il giudice libanese. Calcio, c'è Giuseppe Rossi tra i 30 preconvocati per il Mondiale, fuori dalla lista consegnata alla FIFA Alberto Gilardino. Quindi partiamo dal voto alla Camera, partiamo però dal voto alla Camera sul decreto lavoro, che non ho messo nei titoli perché è una cosa in divenire, che dovrebbe diventare definitivamente legge se ce la fanno a votare entro ora utile. Ma adesso ci aggiorna da Roma Vincenzo Miglietta. Come sta andando, Vincenzo, il voto? Sì, ricordiamo, buonasera ai nostri ascoltatori, innanzitutto che nel pomeriggio c'è stato il voto di fiducia, quindi terza lettura alla Camera, voto di fiducia su tutte le modifiche che sono state apportate al Senato, 333 i voti favorevoli, 159 i voti contrari. A questo punto il via libera definitivo all'intero provvedimento arriverà domani, ma essendo passata la fiducia, Roberta, è scontato il via libera, e quindi domani il decreto lavoro sarà legge con tutte le modifiche che se vuoi andiamo a ricordare. Sì, almeno i punti principali, Vincenzo. I punti principali, si interviene soprattutto sui contratti a termine e sull'apprendistato, sono quindi questi due capisaldi del provvedimento. Quali sono le novità? Per quanto riguarda i contratti a termine, vi è lo stop all'obbligo di causale, vale a dire non vi è più la necessità di indicare una ragione specifica per i contratti a termine fino a 36 mesi. Il tetto precedente, lo ricordiamo, era di un anno. Per quanto riguarda il tetto ai precari, vi è poi in ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al 20% dell'organico stabile. Chi supera questa percentuale avrà una multa. Ultimo elemento molto importante è chi farà la formazione nell'apprendistato. Potranno farlo le regioni, ma potranno delegare questa funzione anche alle aziende. Questi un po' i punti fondamentali del decreto. Grazie Vincenzo Miglietta, e poi domani appunto dovrebbe essere legge. E adesso passiamo invece alla vicenda Expo, vincere la sfida dell'esposizione, giornata milanese è stata quella di oggi per il Presidente del Consiglio Renzi, mentre in procura nel capoluogo lombardo è una guerra di veleni tra il procuratore Bruti Liberati e il PM Robledo. L'inchiesta intanto va avanti e ci sono nuovi elementi dagli atti. Da Milano a Roma, i confini della Lombardia alla cupola degli appalti stavano stretti e per questo si incitavano l'un l'altro a fare uno sforzo per migliorare la classe dirigente capitolina, se no alla fine arrivano i meridionali, scassano tutto e paghiamo anche noi. Parlava così al telefono con Rognoni, ex DG di Infrastrutture Lombarde, il professore alias Frigerio, la mente dell'organizzazione, colui che per l'avvicinamento alla stazione appaltante suggerì il coinvolgimento determinante, annotano i PM di Primo Greganti. Sala è uno della sinistra, bisogna parlarne a Primo perché, dice Frigerio, il comune è di sinistra ma non è uomo di Pisapia, è più legato a Boeri e al PD. Il compagno G garantiva specifica copertura anche per una delle gare Expo, quella per le architetture di servizi. Primo ha dentro un commissario, la sinistra ha dentro un commissario, riferisce il solito Frigerio. Questa è una delle gare pilotate a favore dell'imprenditore Maltauro che nel 2013 avrebbe versato 490.000 euro in tangenti, 1.200.000 quello che invece contavano di incassare in totale. Cifre, percentuali e iniziali puntualmente annotate da Cattozzo, già esponente ligure dell'UDC. Le intercettazioni, le foto, i video emergono dai faldoni dell'inchiesta intralciata, attacca il procuratore capo Bruti Liberati dal suo aggiunto Robledo. Tra l'altro, secondo quanto dichiara il CSM, avrebbe disposto pure un doppio pedinamento. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Nessuna marcia indietro, l'Expo è una sfida che può essere vinta e può diventare il fiore all'occhiello dell'Italia. Dopo la bufera giudiziaria, Matteo Renzi, come annunciato, si presenta a Milano per rilanciare l'esposizione universale. Pur non nascondendo la sua amarezza per quanto accaduto, il premier assicura il sostegno del governo. Di fronte a fenomeni di malaffare non si fermano i lavori pubblici, ci si impegna perché i lavori pubblici siano fatti nel rispetto di tutte le norme e si va avanti con decisione e determinazione perché lo Stato è più grande dei ladri. Oltre che con l'istituzione della task force anticorruzione che dovrà vigilare sugli appalti, Renzi ha spiegato che il governo farà la sua parte anche per semplificare le procedure burocratiche e scongiurare nuovi ritardi. Dopo aver incontrato il premier, il commissario unico Giuseppe Sala ha invece annunciato che sarà Marco Rettighieri a sostituire Angelo Paris, il direttore generale costruzioni di Expo arrestato nei giorni scorsi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo che Renzi se n'è andato oggi da Milano dall'Expo, arriva Grillo che fa una controconferenza sempre su Expo nel pomeriggio e sempre a Milano. Nel giorno in cui Renzi ci mette la faccia come aveva promesso e riunisce i vertici di Expo e le istituzioni, Beppe Grillo proprio da Milano attacca prima l'Expo, poi il presidente del Consiglio. È una grande abbuffata, li bloccheremo, dice il leader dei 5 Stelle in piena bufera di arresti. L'Expo non è stato costruito e pensato per dare un'immagine al mondo dell'Italia, dei prodotti italiani. Sono costruite queste cose come il TAV, come le grandi opere, per riciclare danaro. È un'associazione a delinquere, finalizzata al riciclaggio di denaro pubblico. Per par condicio dovremmo farci arrestare anche noi, scherza Grillo, che non risparmia frecciate al premier. Oggi il Levettino di Firenze ha detto una frase, ci metto la faccia. Lui ci mette la faccia, ma gli italiani ci mettono il culo. Contesta e sminuisce l'incarico affidato al presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, con un gioco di parole. Il gioco dei quattro cantoni. Arriva il super commissario che è super commissario all'anticorruzione e dice, c'è corruzione a risposta? Allora, questo super commissario va a commissariare un commissario. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a questo proposito già stanno arrivando fulmini i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Note. C'è Fabio che dice fermare l'Expo e la figuraccia planetaria, quanto ci costerebbe? E poi invece dice un altro ascoltatore, ascoltatrice, Grillo ha ragione, come al solito ci facciamo riconoscere sempre, io mi vergogno di essere italiano, quindi un ascoltatore, e un altro dice fermare i ladri. Ma adesso parliamo del fatto che soprattutto dopo l'ennesimo naufragio di migranti di ieri, il tema dell'immigrazione è sempre in primo piano. C'è stato un duro botta e risposta oggi tra la commissaria europea Malmström e il ministro dell'interno Alfano. All'accusa europea di scarsa chiarezza, Alfano aveva replicato in questo modo oggi ospite di Simone Spezia, Effetto Giorno. Poi abbiamo sempre detto queste cose in tutti i contesti e in tutti i consessi internazionali. Abbiamo promosso a ottobre una task force mediterranea che ha dato alcuni esiti e questi esiti non sono portati avanti. Se i singoli stati e la Commissione giocano a scaricabarile, allora la Commissione è in scadenza e ci dice che siccome è in scadenza non può fare tutto quello che vorrebbe fare, oppure ci dice che queste sono competenze dei singoli stati, non siamo nati ieri e sapremo rappresentare con forza le ragioni dell'Italia. Se il problema è spedire letterine, invece di spedire letterine domani prendo un aereo e ci vado io a Bruxelles. Lo fa? Sono prontissimo. Forse però non ha preso il biglietto Alfano, perché questa sera è arrivata una telefonata, pare chiarificatrice. Ho appena avuto una conversazione telefonica costruttiva e aperta col ministro Alfano, cui ho espresso ancora una volta le mie condoglianze per i recenti tragici eventi e la riconoscenza della Commissione europea per l'eccellente lavoro che l'Italia sta facendo per assistere i migranti e salvare vite umane, così ha detto la commissaria Malmström. Quindi per il momento forse la situazione è un po' più calma, ma passiamo al caso Scajola e sentiamo quali sono le ultime novità. Ci sono nuovi indagati nell'inchiesta che ha portato in carcere l'ex ministro Claudio Scajola, ma sui loro nomi al momento c'è il più stretto riserbo. Potrebbe trattarsi infatti di nomi altisonanti, a giudicare dalla piega che ha preso l'inchiesta di Reggio Calabria, che ruota attorno alla latitanza dell'imprenditore ed ex deputato Amedeo Matacena. Persone influenti e legate da interessi comuni con l'Andrangheta, tanto che la stessa procura ha presentato ricorso contro la decisione del GIP di escludere l'aggravante mafiosa dai reati contestati a Scajola e la rete di persone che non solo hanno aiutato Matacena a rimanere fuori dalla galera, ma hanno agito per sottrarre i suoi beni al sequestro. Il perno delle indagini continua infatti a ruotare attorno ai soldi trasferiti all'estero, spediti al riparo dai controlli nei paradisi fiscali. E tra questi soldi potrebbe esserci anche il denaro che la mafia calabrese continua a riciclare. Intanto oggi sono stati interrogati la madre di Matacena, la 74enne Raffaella De Carolis, e il suo factotum, Antonio Martino Politi. Ho fatto quello che qualunque madre avrebbe fatto, ha detto la donna. Ho raggiunto mio figlio a Dubai per cercare un avvocato, mentre Politi si è dichiarato dipendente affezionato che ha agito di conseguenza. L'interrogatorio dell'ex ministro Scajola, invece, è stato fissato per il prossimo venerdì. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dal Libano arrivano le parole del giudice Ahmad al-Ayoubi, portavoce del Ministero della Giustizia per il caso dell'Utri. Sarà presa una decisione sulla richiesta di estradizione nei termini più brevi, ha garantito, precisando che in Libano però le regole non le stabilisce il ministro italiano della Giustizia, Orlando. Siamo alla politica interna. Sul fronte della politica interna a far discutere è un libro scritto dall'ex l'ex segretario, quindi ministro del tesoro americano. Il caso Geithner scuote Forza Italia. L'ex ministro del tesoro statunitense rivela che nell'autunno del 2011 fu avvicinato da alcuni funzionari europei e gli proposero di far cadere il premier italiano Silvio Berlusconi. Geithner rifiutò e sposò gli sforzi del presidente della BCE Mario Draghi per salvare l'Unione e l'economia globale. Parole che suscitano la reazione immediata di Forza Italia. Il partito azzurro chiede al governo chiarimenti urgenti e l'istituzione di una commissione di indagine parlamentare. Così Laura Ravetto. Questa cosa è grave, vede, non tanto e soltanto per il governo Berlusconi, di cui all'epoca io ero sottosegretario, è grave per il paese, perché se fosse verificato che effettivamente le sorti di un governo eletto possono essere in qualche modo decise esternamente al paese, e va assolutamente verificato. La tesi del complotto è stata spesso ribadita da Silvio Berlusconi, mentre l'ex alleato Gianfranco Fini, accusato a sua volta da Forza Italia di aver tramato la caduta del Cavaliere, parla di rivelazioni inquietanti, ma crede che quel governo era sostanzialmente incapace di salvare il paese. L'attuale esecutivo invece prende le distanze. Per il ministro degli esteri Laura Mogherini, l'Italia ha voltato pagina. Il caso riguarda il passato e non è utile tornarci sopra con gli Stati Uniti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è un ascoltatore che dice: perché lo chiamate golpe presunto? Adesso non è più affidabile nemmeno Geithner, è solo perché Berlusconi lo dice da anni. In realtà adesso vedo un sacco di agenzie che vengono dall'Unione Europea, Barroso, Presidente della Commissione Europea, che dice: noi in realtà siamo stati soli, quasi soli, a difendere l'Italia. Poi anche Van Rompuy dice che hanno difeso l'indipendenza dell'Italia. Forse, dicono Geithner, non si riferiva all'Unione Europea, quindi un rimpallo di responsabilità. Comunque parliamo di Nigeria. Il governo nigeriano è pronto punto ad avviare i colloqui con Boko Haram per il rilascio delle oltre 200 studentesse rapite, così riferisce la BBC citando un ministro nigeriano. Se ha intenzioni sincere, ha detto la BBC il ministro nigeriano, il leader di Boko Haram, cioè del gruppo integralista islamico che ha rapito le ragazze, dovrebbe inviare qualcuno ad incontrare la commissione per la riconciliazione. Speriamo che ci siano dei passi avanti. Poi in Centrafrica è stata uccisa una giornalista francese, è stata assassinata, così dice il Ministero degli Esteri francese. E poi vi anticipo solo che parleremo della Notte Europea dei Musei, di questo sconcerto intorno al Colosseo, e poi anche dei calciatori convocati per i mondiali. Ma vogliamo sentire un pochino di Crozza da Ballarò? In questo caso Gregante è più un cop de théâtre, però d'altra parte figurati se uno come primo Greganti si butta via per dei lavoretti così piccoli. Greganti, se non c'è almeno un expo, manco si alza dal letto. Sarebbe come chiamare Renzo Piano per impermeabilizzare un terrazzo. Vecchia scuola. Sta parlando di expo, PC, magari poi lo riprendiamo PC. Dopo la viabilità, Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proviamo a risentire un po' di Crozza Ballarò, vediamo a che punto è arrivato. A questo punto farei il padiglione d'Italia a forma di busta, un'enorme busta. Guarda che come truccatori di appalti, Giova, noi nel mondo siamo leader, siamo i visagisti delle gare, i make-up artist dell'illecito. Noi non siamo come Diego della Palma, noi siamo più come Diego dell'appalto. Appena arriva un affare, spuntano 6 truccatori professionisti. Mi scusi, sono ancora un po' onesto qui, sul naso, si vede? Beh, sembra abbastanza chiaro. Vi ricordo brevemente i titoli e poi la prima ospite, parliamo di Expo, come anche Crozza, scontro in procura, Renzi a Milano dice lo Stato è più forte dei ladri, Grillo invece commenta, è una rapina in corso, bisogna fermare tutto. Immigrazione, duro confronto con l'Unione Europea, che afferma l'Italia dica cosa vuole, Alfano risponde l'abbiamo già fatto, però in serata, come vi dicevo, è arrivata una telefonata di chiarimento. Berlusconi, il presunto complotto, lo sapevo, dice, ma Obama si comportò bene. E poi per il calcio c'è Giuseppe Rossi tra i 30 preconvocati per il mondiale, fuori dalla lista consegnata alla FIFA Alberto Gilardino, ma poi parleremo anche di tutti gli altri 28. E saluto Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria alla cultura, buonasera, grazie di essere in buonasera. Collegamento. Voleva fare un commento su Expo, passiamo subito al Colosseo. Ma su Expo condivido pienamente la posizione del presidente Renzi, non possiamo fermarci, non dobbiamo fermarci, questo sarebbe una figura internazionale inaccettabile, quindi bisogna assolutamente che venga risolta questa drammatica situazione di corruzione che è stata evidenziata e poi andiamo avanti e vediamo di fare un Expo che renda merito al nostro paese, che rappresenti anche un momento di rilancio in una situazione di grande difficoltà come quella nella quale ci troviamo. Certo, e per il rilancio si è parlato tante volte dell'Italia di sfruttare in senso buono la propria cultura, il proprio patrimonio culturale e artistico, però succede questa cosa, che in occasione della Notte Europea dei Musei, che ci sarà il prossimo 17 maggio, dopo che era rimasto chiuso già lo scorso 1 maggio, scoppia di nuovo il caso Colosseo, cioè il prossimo 17 maggio musei statali e comunali saranno aperti dalle 20 alle 24 in tutta Italia, vigilia della giornata internazionale dei musei, saranno migliaia ad essere aperti per far conoscere il museo a un pubblico più vasto, questo non solo ai turisti, ha detto il ministro per i beni culturali Franceschini, ma l'annuncio del ministro, che va detto sarà giorno tutta la notte, ha portato con sé anche un caso meno luminoso che quello del Colosseo, che rimarrà invece chiuso perché non si sono trovati i 5 custodi interni volontari che sono necessari e previsti dagli accordi sindacali. Come mai, sottosegretaria Buitoni, è successa questa cosa? Ma guardi, io condivido lo sconcerto del ministro Franceschini, il quale peraltro ha enormemente a cuore l'aspetto della valorizzazione del nostro patrimonio culturale, e mi preme anche dire che è vero che è gravissimo che il Colosseo non sia aperto durante la notte dei musei, però non vorrei che poi questo distogliesse troppi i riflettori da un'iniziativa che io ritengo ottima, come quella della notte dei musei, che come giustamente è stato detto è uno sforzo enorme che il nostro ministero ha per rendere sempre più fruibile il patrimonio museale e monumentale. Quindi giusto sottolineare, come ha fatto il Ministro, che questa situazione del Colosseo andrà prima o poi affrontata, se si dovesse ripetere, speriamo di averne risorse, un'altra notte nel museo, ma insomma non togliamo nulla a questa iniziativa che vede la collaborazione molto ben riuscita tra il nostro Ministero e l'ANCI. Senta, però sentiamo, visto che il caso oggi è questo del Colosseo, visto che non è proprio un monumento, un sito qualsiasi in Italia, sentiamo che cosa ha detto, che giustificazione ha dato Claudio Meloni, responsabile del MIBA per la CGIL, a proposito della situazione dei lavoratori del Colosseo, che ha detto è al limite. Qui non c'è un problema di accordi sindacali, tant'è vero che noi abbiamo fatto un accordo per aprire la notte dei musei. Sul Colosseo c'è una situazione organizzativa al limite, 14 addetti fissi, parliamo di personale di vigilanza, e in tutto i lavoratori sono 30, 363 giorni l'anno sempre aperto, e quindi abbiamo fatto presente che c'era un problema organizzativo e che dal nostro punto di vista, per questo motivo e non solo, il Colosseo dovesse, diciamo, non partecipare a questa apertura. Tant'è vero che il problema c'è solo al Colosseo. Io capisco che il sito ha una significatività, qui i problemi non si risolvono. Si pensa di utilizzare il patrimonio come una specie di slot machine, ma non si risolvono i problemi che sono strutturali. I problemi sono derivati da politiche sbagliate. Che dice dottoressa Borletti Buitoni? Ha ragione il sindacato, in questo caso i lavoratori, guardi, a dire che sono in sottorganico? Il nostro ministero ha sofferto moltissimo di una mancanza di risorse e questa si è tradotta in una mancanza di organico, basta vedere le cifre. Noi siamo oggi scesi a dei livelli di organico minimi e mi preme sottolineare non solo per quello che riguarda la custodia, ma anche per quello che riguarda il personale, i funzionari e chi lavora nelle soprintendenze, quindi è evidente che il Ministero è dal punto di vista dello staff totalmente sottostaffato. Fatta questa premessa, però io credo che se noi ci mettiamo come dobbiamo metterci sulla strada della valorizzazione, che non vuol dire affatto essere delle slot machine, ma vuol dire fare quello che avviene in tutti i paesi al mondo, cioè valorizzare un patrimonio unico, rendendo anche uno sviluppo diffuso sul territorio possibile, credo che da parte di tutte le componenti che compongono questo straordinario, però anche molto fermo meccanismo che è il Ministero dei Beni Culturali, ci debba essere uno spirito di massima apertura per trovare delle soluzioni condivise che portino a poter fare questa valorizzazione. E bisogna appunto possibilmente in tutto questo, oltre alla collaborazione generale, anche provare a fare meno tagli possibili, seppure per trovare le risorse, no? Spesso il settore della cultura. Questa è la base, purtroppo. Noi abbiamo dei tagli, io lo cito sempre, per mantenere tutto il patrimonio, parlo di manutenzione ordinaria, abbiamo quello che non sarebbe sufficiente neanche per metà regione. Quindi la situazione economica del Ministero è assolutamente drammatica e speriamo che grazie anche all'impegno del Ministro si possa arrivare ad avere più risorse, però fatta questa premessa ci deve essere anche un cambio di passo nella mentalità, appunto non penso che aumentare i visitatori significhi trattare i nostri beni come delle slot machine, penso che sia raggiungere degli standard che in altri paesi europei sono già stati raggiunti da molti anni. Bene, io la ringrazio allora intanto Ilaria Borletti Buitoni e poi vedremo se si riuscirà ad arrivare a un accordo, insomma però la data è molto vicina quindi non credo sia possibile per questa volta, evidentemente andrà così. Grazie ancora. Grazie. Grazie a lei. Buona continuazione. Adesso guardavo alcuni dei vostri messaggi che stanno arrivando sempre relativamente all'Expo, a chi ormai scettico, Expo scettico potremmo dire, o che lo vuole fermare del tutto come Grillo, altri anche che dicono ormai è montata la corruzione, è difficile portarlo avanti, invece Renzi, avete sentito anche la sottosegretaria Borletti Buitoni che dice è una grande occasione, continua a essere una grande occasione, bisogna assolutamente mandare avanti i lavori. Dice Enzo, altro che Expo, è dal 2009 che qui si convive con il cantiere abbandonato della TAV Arcisate Stabio. E poi invece un altro ascoltatore evoca Stalin alla Siberia, per quanto riguarda l'Expo mi manca Stalin alla Siberia, quindi evidentemente misure più drastiche. E poi Davide dice idea giustissima quella di Renzi di continuare con l'Expo, perché quanta gente onesta potrà lavorare, Grillo sta andando troppo fuori, altro che rinnovamento. C'è sempre anche la pagina Facebook di Effetto Notte e intanto ci prendiamo una pausa pubblicitaria, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco Roberto Giordano, di nuovo con voi, proseguiamo con la giornata dopo il riassunto, dopo aver parlato del caso Colosseo, adesso un altro tema, però vi ricordo come sempre dopo una pausa, se aveste acceso la radio in questo momento, se vi foste dimenticati, se aveste voglia anche di un ragguaglio dopo averlo già sentito, vi ricordo quali sono state le notizie principali della giornata. Renzi rilancia l'Expo, è venuto a Milano, dice lo Stato è più forte dei ladri, intanto Grillo attacca e dice invece bisogna fermare la rapina. Berlusconi, a proposito delle rivelazioni dell'ex ministro americano Geithner, dice nel 2011 un complotto contro l'Italia, ma l'Unione Europea contrattacca, erano gli USA, gli Stati Uniti a volere Roma sotto tutela, insomma qui c'è un rimpallo di colpe. Altri indagati per il caso Mattacena, spunto il nuovo punto di Scajola, intanto il Libano frena su dell'Utri, sull'estradizione. Il giudice libanese dice le regole non le decide il ministro Orlando. Roma dica cosa vuole, scontro tra Italia e Unione Europea sugli immigrati, botta e risposta tra Alfano e la commissaria Malmstrom, ma poi in serata c'è stato un colloquio telefonico definito costruttivo. Nasce l'Italia dei mondiali tra i 31 rossi, non Gilardino, preconvocazioni di Prandelli a giugno, 8 torneranno poi a casa. E poi il terzo settore verso la riforma del servizio civile universale. Vedo già dei vostri messaggi anche su questo argomento, allora adesso ne parliamo. E saluto il sottosegretario al lavoro e welfare con delega al terzo settore, Luigi Bobba. Buonasera, sottosegretario. Buonasera. Buonasera. E c'è Riccardo Bonaccina. Buonasera, Riccardo. Buonasera a tutti. Direttore di Vita, quotidiano online, il magazine dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica, ambientale, al mondo no profit, insomma. Allora, vorrei che il sottosegretario Bobba ci spiegasse bene che cos'è questa riforma del terzo settore, cioè del settore no profit, del volontariato, no? Il primo settore è quello pubblico, il secondo settore è quello privato e poi c'è il famoso terzo settore. Renzi ha annunciato in grande, diciamo, questa riforma, parlando anche di servizio civile universale, dicendo che chiama i giovani, insomma, a difendere la patria, anche se devo dire, mi scusi la battuta, Bobba, mi sembra un po' una memoria balilliana questa, non vorrei dire una cosa, non era certamente nelle intenzioni di Renzi, però suona un po' così. Ma no, è esattamente il contrario. Beh, certo, perché ciascuno di noi appartiene a una comunità locale, a una comunità nazionale, e il senso di patria non è certamente in senso militaristico, è in senso di appartenenza ad un paese, ad una comunità, e il fatto di svolgere un servizio civile è una forma di impegno civico per qualcosa che abbia a che fare con un bene comune, con dei beni comuni, con delle opere di utilità pubblica al servizio delle persone, specialmente dei cittadini più deboli. Quindi, diciamo così, è una rivisitazione, diciamo così, del senso di sentirsi parte, e anche attraverso questo servizio civile aperto a tutti la possibilità, insomma, di svolgere, di realizzare in qualche modo un impegno per la propria città o per il proprio paese, no? Ma al di là di questo, che diciamo è uno degli elementi della linea guida di questa riforma, la riforma ha un obiettivo diciamo più ambizioso, cioè quello di ridisegnare l'insieme della normativa civilistica, fiscale e di settore di tutti i soggetti e dei comportamenti relativi al campo associativo, volontario e donativo. In questo senso la base di questa riforma è una riscrittura, diciamo così, del libro primo del Codice Civile, titolo secondo, circa proprio i soggetti associativi che sono particolarmente numerosi nel nostro paese. L'Istat ha fatto proprio un mese fa il secondo censimento attorno a questi soggetti. In secondo luogo, l'obiettivo della riforma è quello di creare delle condizioni da un punto di vista delle risorse disponibili per questi soggetti, in modo che possano non solo essere riconosciuti nelle loro funzioni di valore, ma anche promossi come soggetti della coesione sociale, di un welfare partecipativo. E in terzo luogo anche una normativa che faccia sì che il campo dell'economia sociale, dell'impresa sociale, possa diventare un elemento strutturale nella produzione di ricchezze e di utilità sociale insieme. Insomma, l'intento è quello di da un lato riconoscere delle risorse dei soggetti spesso magari considerati invisibili o marginali o irrilevanti, ma allo stesso tempo anche una chiamata, se vogliamo usare così il termine, alle armi, una chiamata in causa, una chiamata alla responsabilità per la rinascita del paese. Insomma, se il mondo non profit è uno dei talenti originali di questa nostra comunità nazionale, Renzi lancia un messaggio forte, da un lato di riconoscimento e dall'altro di chiamata ad una responsabilità più grande. E questo è il valore di questa riforma, ma per esempio dice un ascoltatore sulla pagina Facebook di Effetto Notte, forse ho letto male, io mi pare fosse fino a un massimo di 100.000 giovani, dici, quindi non è affatto universale. Come funziona esattamente nella pratica questo, come dovrebbe funzionare questo servizio civile universale, dottor Bobba? Sì, diciamo così, l'obiettivo intanto è di giungere alla possibilità che almeno 100.000 giovani possano, diciamo così, decidere se lo vogliono, evidentemente, di fare questa esperienza che è insieme appunto di servizio, ma anche di messa a punto di capacità anche professionali, no? Il tempo che dedicheranno presumibilmente sarà anche più breve di quello oggi previsto, oggi sono 12 mesi, nella linea si parla di ridurlo a 6-8 mesi. In terzo luogo saranno riconosciuti anche dei crediti formativi in modo da far sì che questa esperienza possa avere un valore pre-professionalizzante di elemento utile anche per l'inserimento lavorativo. Un quarto elemento è che sono chiamate in causa anche le istituzioni locali, le regioni e anche i soggetti di terzo settore per concorrere in qualche modo a, tra virgolette, finanziare, coprire il costo di un'operazione che vuole, come dire, tirar fuori dalla strada o dal congelatore tante risorse giovanili che altrimenti sarebbero sprecate, finalizzandole a un impiego di utilità sociale, ma anche valorizzando i talenti, le capacità di ciascuno in ordine poi alla propria vocazione professionale. Chiediamo a Riccardo Bonacina. Riccardo, che cosa ti convince di più, che cosa vorresti chiarire di questa riforma del terzo settore? Allora, quello che mi convince di più è il vero cambio di prospettiva, il vero cambio d'ottica rispetto a come la politica ha fino ad oggi guardato al terzo settore, no? Il terzo settore era qualcosa di residuale, qualcosa che veniva dopo la sistemazione dei conti, una volta che il debito al 3% stava dentro i parametri europei, una volta che l'Europa ce l'avrebbe permesso, una volta che la crescita ritornava. Queste sono, cito a caso, ma parole di ministri, dei governi di centrodestra, centrosinistra, insomma, poco è cambiato. Quindi era qualcosa che veniva sempre dopo. In questa, diciamo, prospettiva, i 29 punti, non mi ricordo, della bozza di Renzi, si guarda al terzo settore. D'altra parte, devo dire, lui l'ha sempre detto dai tempi delle primarie, non terzo settore, ma bisognerebbe chiamarlo primo, come alla risorsa prima, la società come risorsa prima, come qualcosa che viene prima e senza la quale qualsiasi infrastruttura, autostrada, banca, banche con i conti a posto, diciamo, non poggerebbero sulla sabbia mobile, no? Quindi la prima infrastruttura vera è questa comunità, questa società che sa organizzarsi, che sa tirarsi sulle maniche, che sa rispondere ai propri bisogni. E per questo diciamo, la proposta Renzi la incoraggia, no? Dice venite prima, quindi la sfida è ridisegnare il volto di questa terra di mezzo che sta tra Stato e mercato e che è un po' un casino ad oggi, è un casino perché è stata disegnata a partire dal 91 con delle leggi di settore, perché non si poteva continuare a chiudere gli occhi, quindi prima le cooperative sociali, poi la legge del volontariato, poi la legge dell'associazione di promozione sociale, prima ancora quella dell'ONG e via dicendo fino alla legge sulle bande musicali di paese. Sono 14 leggi in tutto, sono 4 normative fiscali contraddittorie, c'è un 5 per 1000 che è sperimentale da 8 anni, e quindi una gentile concessione dei governi. Ecco, scusami, seguono. Riccardo, proprio su questa cosa, ecco, del 5 per 1000, no? C'è una novità anche su questo, sottosegretario Bobba. Sì, sinteticamente, cosa consiste? La novità è che viene, diciamo, si dice che il 5 per 1000 deve diventare, mamma mia, finalmente, dopo che 18 altri paesi europei hanno messo norme simili, norme fiscali vere, deve diventare una norma di questo Stato, e non può avere tetti, perché non puoi dire al contribuente firma per il 5 per 1000 e poi, perché metti un tetto, diciamo, diventa il 4 per 1000, il 3,9, il 4,1. Non, sentiamo, non su questo Bobba, scusa, Riccardo Bonaccina, sottosegretario. Quindi come funzionerà poi questa cosa del 5 per 1000? Ma diciamo così, ci sono tre esigenze. La prima è quella di stabilizzare il meccanismo, cioè evitare la sperimentalità, quella che è avvenuta, per cui ogni anno si deve mettere una posta finanziaria, e peraltro qui c'è già una delega già approvata dal Parlamento all'interno della riforma del sistema fiscale, quindi si tratta solo di esercitare la delega. In secondo luogo invece bisogna disporre le risorse perché il 5 per 1000 sia effettivamente, come dice Bonaccina, un 5 per 1000 e non poi in pratica un 4 per 1000. Terzo, bisogna introdurre dei meccanismi di monitoraggio perché, diciamo così, la trasparenza dell'uso di questi fondi sia un elemento qualificante, in modo che sia i cittadini che gli stessi soggetti che utilizzano queste risorse possono, diciamo così, guardare, diciamo, alle situazioni con una qualche chiarezza. Sottosegretario Bobba, mi dica anche una cosa. Ho letto, da oggi al 13 giugno ci saranno le consultazioni aperte online. Sì. Consultazioni con chi e tra chi per questo progetto? Dunque, ci sarà una consultazione online, basta scrivere all'indirizzo di posta elettronica terzo settore lavoltabuona@lavoro.gov.it. Un po' impegnativo, diciamo, come indirizzo. Il terzo settore, la volta buona, è un hashtag che l'amico Bonaccina aveva inventato quando Renzi ha annunciato questa riforma ed è stato ripreso, diciamo così, mi sembra un titolo Vert Muller, la regista, quelli lunghissimi che uno difficilmente si ricorda. Se no, si ricorda, il terzo settore, la volta buona, si ricorda. E lì si può dire il proprio parere, si può dire cosa se ne pensa, sì, di questa, certo, cosa, suggerimenti. E poi io, come sottosegretario, avendo questa delega, promuoverò invece delle forme di consultazione più, diciamo, strutturata con vari soggetti che operano in questo campo, ma possono anche essere reti sociali organizzate che producono dei testi, dei documenti, delle proposte, insomma, che prenderete in considerazione. È una fase in questo mese di ricognizione e anche di valutazione di queste linee che noi abbiamo proposto, che sono ancora, diciamo, un quadro aperto, anche se i caratteri credo siano piuttosto definiti, piuttosto chiari. Riccardo Bonaccina, abbiamo proprio un minuto, proprio 50 secondi, sì, se vuoi chiudere con una tua osservazione. Sì, diciamo, secondo me è importantissimo, appunto, ridisegnare il quadro dandogli un pavimento che è la riforma del codice civile. Ricordo che noi abbiamo un codice civile che su questo tema è stato scritto nel 1942 dalla camerata Rocco, quindi diciamo dal 42 ad oggi il mondo è cambiato 10 volte e noi siamo lì e abbiamo quindi delle tavole della legge della nostra vita civile, che non ha, diciamo, in cui praticamente il cittadino che vuole organizzarsi deve chiedere permesso alle prefetture, per farla breve. Quindi partire da lì mi sembra una vera cosa, madre di tutte le riforme. Bobba, guardi, proprio una risposta ultima, vedo un ascoltatore sulla pagina Facebook che scrive chi paga, nel senso, quindi togliamoci questa curiosità, questi ragazzi che faranno servizio civile, al di là dell'esperienza, dei valori che acquisiranno anche un piccolo compenso, o no? Proprio risposta netta su questo. Il compenso è quello attuale, 435 euro, quindi diciamo, spesso più di uno stagista, comunque, insomma. Sì, più o meno sostanzialmente, diciamo, quello attuale. Adesso bisognerà, se si allarga il numero, bisognerà trovare le risorse, anche se si riducono i mesi, diciamo, in parte c'è una riduzione di spese, ma un allargamento così forte, perché oggi sono poco più di 15.000 i ragazzi in servizio civile, quindi diciamo vuol dire 6 o 7 volte di più. Insomma, sarà anche questa una bella sfida, andare a trovare le risorse, ma credo che sia un obiettivo che merita di trovarle queste risorse. Bene, allora buon lavoro, la ringrazio sottosegretario Luigi Bobba e grazie Riccardo Bonaccina. Buona serata. Grazie, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In pochi secondi, anzi ve le ricordo, così poi passiamo al prossimo tema, parliamo di Europa e poi anche di un altro argomento. Tra le notizie naturalmente Renzi che a Milano rilancia l'Expo e dice lo Stato è più forte dei ladri, ma Grillo commenta in una conferenza stampa: è una rapina in corso, bisogna fermare tutto. Per quanto riguarda lo scontro sull'immigrazione, dopo soprattutto la tragedia di ieri tra Unione Europea e Italia, l'Unione Europea ha detto oggi l'Italia dica cosa vuole, ma Alfano ha risposto lo abbiamo già fatto. Poi in serata c'è stato un colloquio telefonico costruttivo, così ha detto la commissaria europea Malmström. Berlusconi, il presunto complotto, lo sapevo, dice che c'era, ma Obama si comportò bene. Intanto tra Stati Uniti e Unione Europea si rinfacciano e si rimpalano, scarica barile insomma di possibili responsabilità. Il caso Mattacena e l'arresto di Scajola, ci sono altri indagati. Intanto il Libano frena sull'estradizione di Dell'Utri. E per il calcio, vi do questa anticipazione, poi ne parleremo meglio, c'è Giuseppe Rossi tra i 30 preconvocati per il Mondiale. E adesso invece parliamo di Europa. Europa 24 notte. A proposito della polemica, vi dicevo, del duro scontro che c'è stato tra Alfano e la commissaria europea Malmström, poi in serata è arrivata questa telefonata, si sono parlati, la Malmström ha detto: ho appena avuto una conversazione telefonica costruttiva e aperta col ministro Alfano, cui ho espresso ancora una volta le mie condoglianze per i morti, la riconoscenza della Commissione europea per l'eccellente lavoro che l'Italia sta facendo per assistere i migranti e salvare vite umane. Allora sentiamo Michele Cercone, che è portavoce della commissaria europea Malmström, al microfono di Sergio Nava. Non c'è mai stata nessuna forma di critica da parte della Commissione europea alle autorità italiane. Alla lettura che è stata fatta del riferimento all'invio della lettera, in alcuni casi è stata critica nei media italiani, ma l'intenzione e la volontà non erano assolutamente quelle. Semplicemente è stata una constatazione di fatto e la commissaria è stata molto chiara nell'indicare al ministro Alfano che l'invio della lettera è stata fatta in pieno spirito di collaborazione e di dialogo, proprio anzi per migliorare e rendere più efficace l'elaborazione di risposte comune. Quindi credo che alla fine dei conti le posizioni sono davvero convergenti e non ci sono discrepanze o controversie. Probabilmente si è trattata di una diversa valenza data a delle espressioni che a volte poi vengono, come giusto che sia, liberamente interpretate o comunque gli viene assegnata una certa interpretazione da parte dei media, ma la Commissione è stata estremamente chiara, non c'è assolutamente nessuna forma di critica e anzi l'apertura al dialogo e l'apprezzamento per gli sforzi e l'enorme quantità di risorse messe a disposizione dall'Italia per salvare vite in mare sono assolutamente riconosciute, così come è sempre riconosciuto il ruolo di sostegno e di appoggio che la Commissione ha dato e continua a dare e continuerà a dare in futuro all'Italia. Ma anche da parte italiana c'è stata poi soddisfazione su questo chiarimento telefonico, perché Alfano ha detto, commentando le parole oggi della commissaria, parole tra il provocatorio e il ridicolo, era stato molto aggressivo se vogliamo nei toni, quindi l'Italia da questa telefonata come vi è sembrato uscire? Guarda, la telefonata credo che abbia assolutamente chiarito tutti quei piccoli fraintendimenti che si erano potuti creare. È stata una telefonata assolutamente costruttiva e di pieno dialogo tra due personaggi politici che giustamente si sono confrontati su un'attualità che è oggettivamente difficile, complessa e che hanno immediatamente trovato il linguaggio e il tono per reinserirsi in quel rapporto di concreta cooperazione che è sempre stato che ha sempre contraddistinto il loro rapporto. Quindi non vedo l'origine né il motivo della controversia e della polemica. Ripeto, è molto probabile che sia stato più un fraintendimento e un malinteso che altro. Resta però l'emergenza, continuano gli sbarchi in Sicilia, adesso cosa succede? Adesso c'è il prossimo appuntamento, che è quello del Consiglio di giugno. È un appuntamento importante perché, come la commissaria ha detto chiaramente nei giorni scorsi, è il momento per gli Stati membri di stabilire, di dire con chiarezza e in maniera concreta se intendono dare seguito a quelle espressioni di solidarietà che sono state fatte soprattutto dopo la tragedia di Lampedusa nell'ottobre scorso, o se ancora una volta non dobbiamo aspettarci misure e azioni concrete. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ed è entrato poco fa con occhi luccicanti Dario Ricci, evidentemente, perché ha tutto il lunghissimo elenco, non so se faremo tempo a snocciolarli tutti questi 30 nomi tutti per e mondiali, 30, Dario. Nome e cognome per tutta la notte in diretta su Radio 24, no, data di nascita e numero di scarpe. Dici, Dario. Beh, dall'Europa passiamo al mondiale, perché insomma lista dei 30 di Prandelli, andiamo solamente sulle notizie. C'è Pepito Rossi, come sai è recuperato all'ultimo dall'ennesimo infortunio al ginocchio e quindi il CT gli dà fiducia. Non c'è Girardino, l'attaccante del Genoa, che pure di Prandelli è un pupillo. Dentro il capitano Viola Pasquale, difensore l'interista Ranocchio, Parolo del Parma, Romulo del Verona, restano a casa Ranocchio invece... o Ranocchia? Ranocchia. Ah, ecco, no, avevo capito Ranocchio. No, quello no, è stata una trasformazione. No, speriamo diventi principe al mondiale, perché l'annata non è stata granché. Restano invece a casa il cagliaritano Astori e Giaccherini, che pure finora era stato uno dei cardini della nazionale di Prandelli, ma non ha pagato certo il suo trasferimento dalla Juventus al Sunderland. Questi un po' i nomi più importanti, diciamo. Sono 31 in realtà, giocatori scelti da Prandelli, perché Prandelli ha voluto aggregare anche un quarto portiere Mirante del Parma in caso di infortuni. Se mai si facessero male. Esattamente. Buffon, per esempio, si facesse male Buffon. No, per carità, non lo dire neanche per scherzo, perché è successo già Sudafrica 2010, si è fatto male, siamo usciti. No, anche si stanca ultimamente Buffon, mi sembra di capire. La notizia del giorno, oltre alla lista dei 30 o 31, è proprio che il settimanale Chi domani pubblicherà questo scoop delle foto del presunto, ma ormai quasi certo, flirt fra il capitano Buffon e Ilaria D'Amico, la famosa conduttrice, anchorwoman di Sky. Quindi insomma ci sono le foto di questo incontro. Io spero, Roberta, e spero, credo che te lo auguri anche tu, che vada a finire come a Sudafrica 2010, no? Ovvero che alla fine c'era un capitano portiere, allora Iker Casillas della Spagna, una fidanzata giornalista, Sara Carbonero, e alla fine della finale Casillas, campione del mondo, baciò ma lui non era sposato, c'è questa piccola differenza, mi sembra di capire. Vabbè, però adesso figli. Se stiamo a guardare il capello, anche lui, l'importante tanti, è che vinciamo il mondiale, poi insomma la vita privata, il cinismo degli uomini, no, come al solito, soprattutto di quelli che si occupano di calcio. Poi pensate, abbiamo 4 secondi se vuoi salvarti da quello che hai detto. Me li godo questi 4 secondi. Benissimo, allora cari ascoltatrici, questi sono i convocati e i guai, diciamo, che riguardano il mondo del calcio. Dario Ricci lo saluto, noi ci sentiamo tra pochi istanti.